Il terremoto ha raso al suolo abitazioni che per la maggior parte dei sopravvissuti, in particolare per gli anziani, rappresentavano il sacrificio di una vita. Anche in questi casi alla ricostruzione materiale si deve affiancare il lavoro di ricostruzione psicologica per rimettere in piedi con le case anche la speranza. Alma Grandini. Anni di sacrifici e di lavoro, anche questo il terremoto ha spazzato via, oltre alle tante vite rimaste sotto le macerie. Quelli che si sono salvati hanno ancora il terremoto negli occhi, ma soprattutto non riescono a staccarsi dall'idea di aver perso tutto, familiari e case. In particolare gli anziani, con i loro averi, hanno perso tutto quello che avevano costruito in una vita. Ma che cosa può rappresentare per un anziano perdere la propria casa? Il professor Massimo Fagioli, psichiatra all'Università di Chieti Pescara. Può rappresentare appunto la perdita di un'identità, invece bisogna dirgli che non è perdita dell'identità e che la vita condotta bene durante 70 anni resta, anche se deve andare in tenda, cioè in modo da ridare una sicurezza che c'è la solidarietà, esiste la società. Come aiutare allora gli anziani in questa fase di ricostruzione? L'unica cosa che si può fare per un anziano è questo, che l'identità umana, la propria identità non è rovinata. Questo è un fenomeno naturale, fisico, che mette in pericolo il corpo, non la mente.